9 in punto, la versione di Oscar. Oh, my elaborate flies the air of everything that stands the air. No safety or surprise the air. Eccoci qua, cari ascoltatori, questa puntata oggi sarà dedicata a uno dei temi sui quali Oscar Giannino torna più spesso, naturalmente quello delle imposte, perché avremo la storia di un imprenditore. Moria Righi ce l'ha racconterà tra poco, appena si renderà disponibile a telefono. È avuto un imprevisto all'ultimo secondo. Mario Righi è uno dei tanti imprenditori, che però uno dei pochi che poi la storia l'ha raccontata. Como ha pagato le tasse, però ha dovuto, una volta pagati tutti i suoi adempimenti fiscali, dire così non ce la facciamo, e quindi ha chiuso l'azienda. Ce lo racconterà, ma ci interrogheremo oggi insieme a due esperti economisti e tributaristi del come e se questa Italia davvero, come spesso troppe volte raccontiamo, ha una propensione all'evasione in qualche misura atavica, insita nel DNA degli italiani, o invece da che cosa dipenda, alla luce di un serio esame comparato con gli altri paesi, una percentuale che tuttavia è sicuramente molto elevata di economia in nero, di evasione fiscale, e di come affrontare, alla luce proprio dell'esame comparato dei dati, la situazione italiana. Da questo punto di vista, breve, prima di immergerci nel tema della giornata, brevissima rassegna europea a giustificazione del fatto che continua a valere la pena tenere i Doors. Inizio ad avvertire una richiesta crescente di sottolineare l'ottimismo, Monti eccetera eccetera. Sì, però questo non c'entra niente con Monti, questa scelta dei Doors, c'entra con la soluzione alla radice del problema dell'euroara. Come sapete, anche ieri l'Europa ha bloccato gli aiuti alla Grecia, il meeting che ci doveva essere per formalizzare l'ok al voto del Parlamento greco, e ci doveva essere oggi mercoledì, è stato rinviato. Io non vorrei dire, ma io, fino a che continuo a vedere questo loop, questo avvitamento, credo che tenere i Doors, al di là del fatto che, come avrete immaginato, i Morrison e i Doors mi piacciono, credo che sia giusto. Allora, brevissimamente, Financial Times di oggi, Peter Spiegel, un più dettagliato articolo che abbia letto fino a questo momento, degli ostacoli e della corsa contro il tempo per la ristrutturazione del debito greco. Troverete tutti i particolari del perché ci sia bisogno di tirar su nell'euroarea 93,5 miliardi di euro come somma dei diversi contributi nazionali per fare fronte allo swap del debito, e non è affatto detto che ci si riesca prima di un eventuale ok. Anche per questo i tedeschi diluiscono i tempi dell'ok, quindi c'è questa prima spiegazione del perché si prende tempo. Poi ce n'è una altra molto singolare sul fatto che una volta stabilito la percentuale del taglio dei capelli e dello swap, se davvero questa percentuale stabilita tenda ad essere obbligatoria per tutti i bondholder, e c'è il parere di uno studio legale molto importante, perché Cleary, Gottwedstein e Hamilton di New York, che dice neanche per idea. E quindi, se avete titoli greci, o amici o qualcuno che ha titoli greci, leggetevi l'articolo, perché sappiate che dovete esporvi a qualche piccolo problema. In realtà l'esposizione italiana è tra le più basse rispetto a tutti grandi paesi europei come la Francia e la Germania. Dopodiché continuano i contrasti anche tra banchieri centrali europei. Per esempio, c'è un'intervista ad Handelsblatt oggi tedesco di Jens Widmann. E Jens Widmann, che è il presidente della Bundesbank, lo ricordo a tutti, critica, anche se non lo cita, con il nuovo recente membro del board della BCE, Francis Benoît Cœuré, e qui stiamo parlando della quota di compartecipazione nazionale, dei meccanismi appunto di compartecipazione della banca centrale a swap o a eventuali di titoli sovrani dell'euroarea, o a eventuali sopravvenienze positive invece da interventi sugli eurotitoli. Bisogna ridarli ai paesi membri oppure no, nel caso che si fanno i soldi, la si pensa diversamente. Dopodiché E mi fermo qua per il momento. Interessantissimo che l'OCSE ieri, Angel Gurria dell'OCSE, ha criticato un paese che non è, siamo abituati a vedere in cima alle critiche perché non fa abbastanza riforme. Infatti Angel Gurria dell'OCSE ha ieri messo in la Germania e l'ha messa la Germania e oggi su Deutsche Zeitung riporta con ampiezza queste critiche alla Germania. Perché? Perché Gurria dell'OCSE dice che la performance economica tedesca, dell'export tedesco, è stata eccezionale, ma il paese rischia di perdere il passo della sua crescita dinamica se non fa profonde riforme del suo sistema del fisco e contributivo. Perché l'OCSE e Gurria dicono ci vuole un'IVA più alta, meno tasse sul lavoro, figuratevi, lo dicono alla Germania, meno tasse sul lavoro e una riforma delle pensioni. E qui si richiama al fatto che quella italiana è diventata invece quella in testa alla lista delle più sostenibili in Europa, molto più di quella tedesca. E quindi insomma divertente questa cosa, devo dire. Certo, dire che sul loro cuneo fiscale è troppo elevato mentre l'Italia batte tutti è divertente anche questo. Il Financial Times Deutschland invece se la prende con economisti ed europarlamentari che criticano Olli Rehn, per Olli Rehn la commissaria europea, perché nelle raccomandazioni che sono venute a 12 paesi ieri da parte della commissaria per ciò che non hanno fatto per aumentare la loro competitività, Financial Times Deutschland, c'è il punto dell'avanzo tedesco da questo punto di vista non è stato sufficientemente tutelato. Come si vede, la Germania inizia un pochino a innervosirsi nel suo dibattito interno. Martin Wolf, e ho finito davvero, Martin Wolf riserva il suo editoriale oggi su Financial Times all'articolo di William Boyter che vi avevo richiamato ieri e che era molto critico sul meccanismo di con il quale noi stiamo gettando la Grecia in anni e anni di crescita meno 4, meno 5%, e Martin Wolf ha un'opinione leggermente più positiva, ma non lo so, non mi convince troppo. Andiamo al tema di oggi. Sono con noi collegati Giulio Zanella, che insegna economia all'Università di Bologna. Buongiorno professor Zanella. E Raffaello Lupi, lo conosciamo, docente di diritto tributario alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno professor Lupi. Buongiorno. Allora, questo approfondimento nasce dal fatto che professor Zanella, con un articolo su Noise from America, che è un altro dei siti che spesso richiamiamo con amici che scrivono come Michele Boldrin e così via, è intervenuto con un articolo su Noise from America segnalando un suo paper, una sua ricerca che ha compiuto insieme al professor Roberto Galbiati, e questa ricerca, quindi se volete l'integrale del paper che potete scaricare su piattaforme come quelle del Social Science Research Network, ma andate su Noise from America, trovate sia l'articolo del professor Zanella sia il richiamo al paper, il link, è una ricerca comparata sul moltiplicatore sociale dell'evasione fiscale. E l'interesse di questa ricerca, per chi come me è alla continua ricerca di controprove intorno all'interrogativo se gli italiani siano atavicamente legati dal fatto di essere troppo machiavellici, troppo guicciardiniani, o se invece il loro comportamento nel nero non sia effetto di incentivi e disincentivi di un ordinamento particolarmente evolutosi senza guardare a questo fine, ecco, è molto interessante perché porta secondo me degli elementi di fatto e di dati comparati che vanno esattamente in questa direzione. Ci spiega, professor Zanella, alcuni elementi di questa comparazione che avete fatto e quali sono le considerazioni alle quali vi ha indotto? Sì, questo in realtà non è l'oggetto della nostra ricerca appunto sul moltiplicatore sociale, della quale se volete possiamo parlare dopo, però diciamo, abbiamo analizzato un po' i dati comparati, quelli più attendibili che ci sono a livello internazionale sull'incidenza dell'evasione, abbiamo notato questo fatto che ci ha subito colpito, diciamo, cioè che se restringiamo l'analisi a particolari categorie di contribuenti, quindi in questo caso noi guardiamo ai lavoratori autonomi, che non sono solo i professionisti, diciamo, sono tutti quelli che diciamo, riportano il proprio reddito direttamente al fisco, quindi in Italia sono sia professionisti ma anche gli agricoltori, le piccole imprese, eccetera, abbiamo notato che appunto se riferiamo a questa particolare categoria, l'imponibile non dichiarato di questi lavoratori autonomi, che chiamiamo in senso lato, è molto simile in Italia come in Danimarca e come negli Stati Uniti, che sono i tre paesi per i quali abbiamo al momento dati attendibili e comparabili. E questo ci ha colpito di fatto, perché appunto il punto è che quando gli incentivi sono simili, evidentemente le persone tendono a comportarsi in maniera simile, che è una delle cose a cui gli economisti tendono a credere. Ecco, cioè lo ripetiamo, perché lei ha parlato quasi più velocemente di me, già io parlo troppo velocemente per la radio. Okay, per categorie di contribuenti comparabili, la propensione a non fare il proprio dovere fiscale è del tutto comparabile. Poi ci dica anche la percentualità: Italia, Danimarca e Stati Uniti, cioè i due paesi che non sono casuali, in realtà sono, i dati dicono questo, però sono anche due paesi di quali si dice sempre tradizionalmente l'America sì, perché ci sono le manette agli evasori e lì allora tutti pagano le tasse, la Danimarca sì, perché il modello della compliance scandinava, che testimonia il maggior civismo eccetera eccetera rispetto all'Italia. Invece no. Che percentuali siamo, stimate? Dunque, Italia è un po' più alto, abbiamo due diverse misure che guardiamo. C'è una misura che è l'imponibile non dichiarato, quindi questo vuol dire se devo dichiarare 100, quanto di questo nascondo al fisco. Nei dati che noi guardiamo per gli autonomi italiani, che questo in realtà si riferiscono a fine anni 80, ma non credo che siano cambiati di molto, siamo circa al 46%, quindi a fine anni 80, per ogni 100 di reddito tassabile che doveva essere riportato al fisco, in Italia si riportava 46. La cifra per la Danimarca è 42, e quindi 46 in Italia, 42 in Danimarca, quindi per ogni 100 euro che il lavoratore autonomo danese deve riportare al fisco ne riporta, ne nasconde 42. In questo caso sono dati che si riferiscono a circa 20 anni dopo, cioè al 2007. Per gli Stati Uniti invece guardiamo un'altra misura, che è il tax gap, perché la prima misura di imponibile non dichiarato non era disponibile nei dati americani che abbiamo guardato. Il tax gap è una misura simile, cioè ci dice quanto, quindi se io devo pagare 100 di imposte al fisco, quante non ne pago. Quindi per l'Italia è 55. Per i lavoratori autonomi, per gli Stati Uniti varia, perché lì non c'è, diciamo, la categoria lavoratori autonomi nei dati che abbiamo guardato aggregata, ci sono varie sottocategorie, comunque oscilla tra 52 e 57, quindi sono dati che sono veramente sorprendentemente simili, ed è questo che ci ha colpito. Quindi nonostante appunto i sistemi fiscali siano diversi, il livello di pressione fiscale sia diverso eccetera, c'è qualcosa che induce i lavoratori autonomi in questi paesi a comportarsi in maniera molto simile. Allora, se le stime, sia pur riferite ad anni diversi, ma perché avete preso degli anni 80 e dati così arretrati in Italia? Per questo sono dati molto particolari quelli che abbiamo utilizzato, diciamo, e non siamo riusciti a trovare nulla di più recente. Addirittura. Comunque, se queste stime di imponibile non dichiarato e di imposta non versata, come vedete, sono in un ordine di grandezza del tutto comparabile, al di là di qualche differenza di punto, non è 46 rotti per cento, il 42% Italia-Danimarca e il 55% rispetto alla italiano rispetto alla Forbes di 52-57%, significa che sono del tutto comparabili. Quindi la conclusione alla quale, cioè l'inferenza che tirate da questa osservazione, è che in realtà la maggiore o minore rilevanza del fenomeno dipende da che cosa? Dipende da come funzionano gli incentivi e disincentivi, cioè in realtà l'evasione è maggiore laddove c'è un sistema che rende, dal punto di vista del costo efficacia della sanzione, più vantaggioso non fare fino in fondo il proprio dovere oppure no. Questo è il classico meccanismo alla Ronald Coase, per così dire, che del vostro ragionamento, dal quale però che cosa far discendere come conseguenza? La conseguenza è che in questi paesi il livello appunto di evasione in questa categoria è molto simile, ma la dimensione dell'economia sommersa è a poli opposti veramente, cioè si va da quasi un massimo in Italia insieme ad altri paesi dell'Europa mediterranea come Grecia, Spagna eccetera, al minimo di Stati Uniti, altri paesi come Svizzera, e la Danimarca un po' intermedia. Quindi questa questa differenza nell'incidenza dell'evasione sul PIL di fatto dovrebbe essere spiegata più da un effetto di composizione, e questo è coerente con quello che vediamo su quella che è l'incidenza dei lavoratori autonomi in questi paesi. Ce ne sono moltissimi in Italia, circa un quarto, e molti meno negli Stati Uniti e in Danimarca. Quindi il punto è che probabilmente il sistema fiscale è tale da incentivare molte persone a intraprendere carriere in quei settori dove è più facile evadere le tasse, in paesi come l'Italia. Oh, e a questo punto la maniera per la quale, vista la composizione, che io tendo a credere la composizione di maggiore percentuale, molto maggiore percentuale di lavoratori autonomi, quindi commercianti, professionisti, eccetera, eccetera, artigiani, commercianti, non è che si spiega solo per questo, è una composizione che dipende da un'evoluzione storica del nostro tasso di attività e partecipazione al mercato del lavoro, classe dimensionale di imprese e così via, ma in realtà bisogna partire dal presupposto che l'ordinamento fiscale deve adattarsi alle caratteristiche del mercato, più che dirigisticamente tentare di volgerle, perché noi l'Italia ci ha provato con un ordinamento fiscale fatto con l'idea che il pilastro fondamentale doveva essere l'autoliquidazione d'imposta, l'autodichiarazione d'imposta, con l'idea che sarebbe aumentata la percentuale di lavoratori dipendenti, aumentata la percentuale nelle classi dimensionali di imprese, quelle medie e grandi, in realtà la storia è andata nella direzione opposta da questo punto di vista. Tanto è vero che voi dite, per prendere atto di questa situazione nella quale non è la maggiore propensione individuale a fare la differenza, è il fatto che abbiamo più autonomi rispetto agli altri, ma non sono più anomici di quello che siano quegli americani o quelli danesi. Però la conseguenza nell'adattare l'ordinamento fiscale per tentare di contenere il fenomeno alla quale voi arrivate, qual è? Quale indicate? Questa diciamo la domanda successiva, che è un po' più complicata. Cioè, una volta che vediamo questo fatto, la domanda si sposta solo di un livello, cioè la domanda diventa: perché in Italia c'è questo incentivo così forte a intraprendere carriere come lavoratori autonomi? Quindi questo può essere appunto in parte dovuto o all'inefficienza del sistema stesso di amministrazione e raccolta delle imposte. Quindi evidentemente se l'amministrazione fiscale è particolarmente inefficiente, c'è un incentivo a intraprendere carriere laddove non si è soggetti a sostituto d'imposta. Okay, quindi se l'amministrazione fa difficoltà a raccogliere imposte, è razionale appunto intraprendere una carriera dove le imposte me le riporto da solo, perché così posso nascondere più facilmente al fisco. Quindi questa è una possibilità, non è l'unica, potrebbe anche essere dovuto a particolari inefficienze nel mercato del lavoro, per esempio. Quindi sì, dove il mercato del lavoro è molto rigido, c'è, come sappiamo che c'è in Italia, una tendenza per esempio a mascherare rapporti di lavoro dipendente mediante false partite IVA, cioè come il lavoratore diciamo che utilizzano partite IVA che di fatto risultano false la volta del dipendente e cose del genere. Quindi questa è un po' l'idea. Quindi se questo è il problema, quello che si deve fare è sicuramente rendere il mercato del lavoro un po' più efficiente, in modo da dare un incentivo a rappresentare correttamente i rapporti di lavoro. Un'altra cosa da fare sicuramente è rendere più efficiente la raccolta delle imposte, in generale il procedimento fiscale, e anche rimuovere quelli che sono gli incentivi che inducono un po' il nanismo delle nostre imprese. Quindi chiaramente un paese dove ci sono molte piccole imprese è un paese dove ci sono molti lavoratori autonomi, e questo aumenta l'incidenza dell'evasione. E poi, arrivando al punto dell'incidenza anche delle particolarità dell'ordinamento fiscale in questa maggiore propensione, voi dite che può essere benissimo che dipenda anche, anzi è molto probabile che dipenda anche, dal fatto dell'eccesso di fiducia che noi abbiamo riposto nel meccanismo per cui facciamo l'autodichiarazione dei redditi attraverso il sostituto d'imposta, o l'autodichiarazione dei redditi ovviamente per chi non è soggetto a sostituto d'imposta e non è dipendente. Cioè, in altre parole, abbiamo incentrato l'ordinamento sulla fiducia che sia Oscar Giannino a dover dichiarare il suo reddito e il suo imponibile, mentre invece nei paesi in cui è molto più ampio il sistema, il ricorso a parte l'ordinamento fiscale a un sistema per il quale l'imponibile, il reddito di Oscar Giannino si ricostruisce, viene dichiarato da parte di coloro, dalla somma delle dichiarazioni di coloro con cui Oscar Giannino interagisce, ecco, quello diventa un incentivo attraverso il quale sull'imponibile e sul reddito, sull'imposta pagata da Oscar Giannino, diventa un pochino più complicato, anzi parecchio più complicato che Oscar Giannino faccia il furbo, per così dire, o mi sbaglio? Tutto quello che va nella direzione di far emergere il reddito di una persona da dichiarazioni di terzi, questo chiaramente aiuta. Allora qui veniamo al punto di fondo al quale volevo arrivare, e per questo è con noi il professor Lupi, che lo sappiamo è sostenitore di una linea per la quale lo Stato si dovrebbe concentrare su quelle 40.000 imprese che sono il più del sostituto d'imposta, il più del totale del gettito raggiunto, da una parte. Dall'altra, chiedere a lui questa linea che apparentemente sembra in contrasto con quella che sostiene lui, cioè concentrarsi su il più delle imprese dal quale viene la stragrande percentuale del gettito fiscale italiano, se invece nella sua visuale questa cosa sia componibile con la conclusione, che poi è una conclusione di senso generale che spesso da tutti viene quasi sostenuta, dicendo: ma perché in Italia non ci fanno scontare le spese sostenute per il servizio offerto da Tizio, in maniera tale che Tizio sia meno abile nel dire che non ha in realtà incassato i soldi che gli ho dato? Perché non ci fanno detrarre e ridurre le spese? Io dico sempre: bisogna cambiare la natura dell'IVA. L'IVA è un'imposta sul valore aggiunto, non è un'imposta sui consumi. Una volta che l'abbiamo cambiata, però, e facessimo questo ragionamento, io sarei favorevole, a patto del fatto però che a quel punto l'emergere di vasto imponibile IVA e magari anche un aumento di aliquota dovrebbe comportare un ragionamento sistemico per il quale noi abbassiamo le aliquote sull'imposta personale. Non è che possiamo fare l'una e l'altra cosa. Tra l'altro ieri Monti ha rassicurato che l'aumento annunciato per l'IVA entro ottobre, se non si fa l'esercizio della delega fiscale, non arriverà. Non ha detto come, se attraverso l'esercizio della delega fiscale o per sopravvenienze fiscali non dichiarate, perché le cose vanno meglio, vedremo. Ma la domanda che faccio al professor Lupi subito dopo che torniamo dalla pubblicità è questa: che ci spieghi quindi come si può insieme agire di più e meglio su il più di coloro che fanno il gettito, e dall'altra parte comporre questo con uno schema di contrasto di interessi fiscali. E niente da fare, l'imprenditore evidentemente si è preso paura, e tra l'altro si è preso paura, ma la storia che noi abbiamo sulla quale abbiamo affidato i contatti telefonici con lui, con Mario Arrighi, imprenditore comasco, era una storia sulla quale poi aveva rilasciato dichiarazioni alla provincia di Como. A me dispiace, non voglio fare alcuna considerazione, perché non è che vorrei che gli ascoltatori pensassero che me l'ero inventata. Mario Arrighi ha 54 anni, dopo 6 di attività in proprio, è dovuto tornare a fare il dipendente, aveva aperto un'impresa nella storia di pneumatici di cui è esperto. Ringraziava in questo articolo, uscito sulla provincia di Como, il suo datore di lavoro che lo aveva riassunto, e descriveva come all'indomani, nell'intervista sulla provincia, un quotidiano comasco del comandante provinciale della Guardia di Finanza Marco Pelliccia, che in coerenza a intervista rilasciata anche dal comandante generale della Guardia di Finanza, nella quale si apprezzava molto il sostegno che il governo sta dando col potenziamento degli strumenti di indagini ispettive, comunicazioni dei dati bancari, al sistema dell'accertamento dei redditi complessivamente, cioè insomma Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, e notava insieme anche il cambio di atmosfera nel paese, cioè il fatto che grazie a questo sostegno convinto da parte del governo ci fosse un cambio di aria, nel così dire, un aumento della compliance spontanea, dell'adesione spontanea all'ordinamento. E all'indomani di un'intervista del tutto analoga al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Como, Marco Pelliccia, Mario Arrighi si era sentito chiamato in causa e aveva raccontato al giornale di Como: sì, d'accordo, io non mi sento un ladro, però io ho seguito tutte le regole, le ho seguito, ho pagato sempre quello che dovevo pagare, non ho mai fatto alcun lavoro in nero. Il risultato è che dopo aver assunto due operai e aver iniziato e per metterli tutti in regola, i contributi, le tasse eccetera, alla fine quando inizi poi non essere più pagato dai clienti mentre devi pagare naturalmente lo Stato con assoluta puntualità, ho chiuso. E oggi si rifiuta di rispondere al telefono, e ma, le, trovate la sua, la sua storia sulla provincia di Como, ripeto, Mario Arrighi. Allora, professor Lupi, abbiamo sentito i dati della ricerca di Zanella e di Roberto Galbiati, quindi non c'è una maggiore propensione delle parti d'Italia non soggette al sostituto d'imposta, per così dire, che dipende dal fatto che gli italiani sono più furbi per natura, ma dipende da come è costruito l'ordinamento. Le considerazioni finali alle quali siamo giunti è il contrasto di interessi nel pagamento dell'accertamento dei redditi dell'imponibile dell'imposta per chi non è soggetto al sostituto d'imposta potrebbe servire, e lei contemporaneamente, lo abbiamo sempre difeso e raccontato ai nostri ascoltatori, dice noi ci dobbiamo innanzitutto però concentrare per migliorare il gettito su coloro dai quali ne proviene di più, appunto le imprese che sono il sostituto d'imposta, che sono poi non troppe migliaia. Secondo lei le conclusioni di questo studio come si conciliano con la sua impostazione? Beh, mi pare che siano totalmente convergenti, cioè forse mi sono spiegato male quando dicevamo ci dobbiamo concentrare. Ho detto che dobbiamo capire che sono loro quelli che segnalano al fisco o addirittura tassano direttamente consumatori, lavoratori dipendenti, risparmiatori eccetera, quindi sono loro che fanno gli esattori e che quindi il fisco deve intervenire dove loro non arrivano. Esatto, esatto. Quindi c'è una totale convergenza rispetto al lavoro di Zanella, dove vedo un po' sottovalutato proprio il ruolo delle aziende strutturate, cioè noi in questo paese non sappiamo esattamente cos'è un'azienda, mettiamo sullo stesso piano il pasticcere e la multinazionale dolciaria. Il pasticcere non è un soggetto in grado di fare il report dei redditi altrui, anche se noi teoricamente in Italia facciamo fare le ritenute alla fonte perfino al contadino, al coltivatore diretto, quindi teoricamente le dovrebbero fare tutti. Ma le fanno quelli che sono organizzati, quindi le aziende organizzate fanno da esattore del fisco. Noi non ci dobbiamo concentrare su di loro a fargli i rilievi su quello che hanno dichiarato, ma cercare di trovare se c'è quello che non hanno dichiarato, perché simultaneamente si fa l'esattore del fisco e poi magari si mette via qualcosa per il padrone, soprattutto nel medio piccolo capitalismo, e quindi cercare quello che non dicono invece di fare i trapezismi giuridico interpretativi su quello che dicono, da cui viene incidentalmente la maggior parte del gettito riportato dall'Agenzia delle Entrate. Per poi ho fatto alcune considerazioni sui siti giustiziafiscale.com eccetera. Il grosso del gettito viene dal cosiddetto tutoraggio fiscale nei confronti dei grandi contribuenti, che non prende quello che nascondono, che pure può esserci per il padrone, ma rielabora quello che dichiarano, l'abuso del diritto, insomma, le riconosciamo, divaghiamo. Esatto. Quindi il fisco deve arrivare dove i segnalatori esterni non arrivano, c'è un complemento, da una parte tassiamo attraverso le aziende. Non c'è l'autotassazione, la tassazione è sempre etero, le tasse si pagano non perché siamo buoni cittadini. Bravo. Il lavoro di Zanella è ottimo in questo senso, cioè in materia di tasse nessuno è patriota, diceva Orwell. Non esiste una via etica all'autopagamento delle tasse. Bravo, non esiste una via etica, cioè se non ce le sentiamo in qualche modo chiedere, questo non vuol dire che si devono chiedere a tutti sempre, tutti gli anni, ma ci deve essere una richiesta serena, perché stiamo parlando con gente che fa servizi, che produce beni, non stiamo parlando con i ladri, con i nemici della patria, bravo, no? Con i traditori. Ma c'era un'assonanza terribile fra la colonna infame, se si cerca la colonna infame di Gian Giacomo Mora di manzoniana memoria, dove si diceva l'untore traditore della patria, e le dichiarazioni di certi personaggi del governo a proposito degli evasori come traditori della patria. Cioè, questi sono pasticceri, cioè è gente che ci ripara le gomme, non sono i ladri dentro casa. Questa lacerazione sociale è veramente preoccupante, perché poi il capro espiatorio intermedio dei controlli, siccome è difficile vedere quanto ha nascosto un operatore economico, è sempre il regime di quello che è stato dichiarato. Cioè, il grosso del gettito dell'Agenzia delle Entrate proviene dal regime interpretativo di quello che è stato riportato, non di quello che è stato nascosto. Cioè, mi sto addirittura chiedendo adesso, con i dati di Cortina, hanno visto che un certo giorno si è scontrinato 4 volte quello normale, ma come li estenderanno il resto dell'anno? Cioè, noi la ricchezza non registrata non riusciamo a farla venire fuori. Cioè, anche se abbiamo visto che per 2 giorni l'anno una determinata boutique o un determinato ristorante di Cortina, quando c'erano i finanzieri, ha battuto il doppio degli scontrini, ci sono grossi problemi di funzionamento del discorso giuridico ad estenderli a una rettifica a tutto l'anno. Chiarissimo. Capito? Vedi, perché noi abbiamo un'amministrazione che non valuta, cioè negli Stati Uniti hanno la fortuna di avere pochi pasticceri, non hanno il problema. Noi ne abbiamo relativamente tanti, io faccio la metafora del pasticcere perché si adatta abbastanza bene. Ne abbiamo troppi, non riusciamo a gestirli con gli studi di settore e non possiamo andare indietro rispetto alla tassazione attraverso le aziende, se no non arriva più una lira. Cioè, dobbiamo simultaneamente prendere i soldi dalle aziende e andarli a chiedere dove le aziende non arrivano, in un modo che è totalmente inverso, perché è come il fisco ha sempre fatto, cioè valutativo, quanto puoi guadagnare, quanto ti rende il macchinario, con la teoria del più o meno. Esatto. Che è esattamente l'inverso di quello che fanno le aziende nella fisiologia. Si tratta solo di costruire un modello culturale, è così che deve funzionare. Però il reddito del pasticcere non sarà mai accertato con la precisione di quello del bancario, perché quello del bancario ci pensa l'Unicredit, gli abbiamo delegato la questione. E naturalmente il piccolo particolare che riemerge sempre è che bisogna anche guardarsi da una tentazione, che può essere quella che attraverso un inasprimento del regime di controlli e buttare marginalità crescente a renderla decrescente invece attraverso gli accertamenti, con l'idea che così dall'alto dirigisticamente diminuiamo il numero di pasticceri e aumentiamo la produttività del paese, che è una tendenza che spiega molto della teoria etica invece e della civiltà in base alla quale poi si divide il paese in una lotta tra parti sociali, perché una parte di chi l'ha sempre sostenuta anche nella dottrina scientifica, non sto parlando solo della politica, è quello che così comunque si buttano fuori dal mercato un bel pacco di decine e decine di migliaia di imprese in realtà a bassa produttività, e una marginalità che si spiega solo grazie all'arbitraggio tra fiscalità e flussi di cassa, e a quel punto ci guadagniamo tutto se facciamo meno pasticceri. E io dico che invece non spetta a questo l'idea di stabilire dall'alto quanti pasticceri è bene avere nel paese. Come sempre vedete che gli economisti dicono che non servono, invece servono, perché servono attraverso le loro ricerche a ribaltare alcuni dei apparenti luoghi comuni, a fare considerazioni su quanta parte di efficienza fiscale possiamo fare con meno conflitto sociale lavorando su com'è il sistema fiscale, e ce lo dice il professor Lupi, e contemporaneamente tenendo conto di quello che ci dicono queste ricerche su il contrasto di interessi. Io ringrazio il professor Lupi e il professor Zanella, adesso andiamo alle informazioni stradali e poi le vostre telefonate. Eccoci qua, e a proposito del perché ci siano altre buone ragioni per dire this is the end, guardate oggi sul nuovo dorso del Sole 24 Ore Impresa e Territori, trovate in prima pagina un rapporto e una tabella, l'altra faccia della stretta, cioè il credit crunch, la restrizione di credito alle imprese, e c'è una bella tabella comparata sul grado di difficoltà per ottenere i finanziamenti dalle banche in una serie di paesi. Noi In questa lista di paesi, Lussemburgo, Finlandia, Norvegia, Australia, Svezia, Danimarca, Olanda, Nuova Zelanda, Slovacchia, Canada, Francia, Germania, Spagna, ecco, l'Italia è l'ultima, cioè quella in cui i pazzi che vogliono continuare a tenere aperta un'impresa sono quelli che hanno le peggiori condizioni per l'offerta di credito, e su questo io continuerò sempre a polemizzare pacatamente con l'ABI, che sostiene invece il contrario. Tasse, impedimenti amministrativi, stretta bancaria sono solo alcuni poi delle difficoltà con cui l'imprenditore italiano deve fare i conti in termini comparati rispetto ai pari classi di altri paesi. Figuriamoci. Sentiamo come la pensate voi oggi. Cominciamo con Roberto dalla provincia di Terni. Prego Roberto. Buongiorno dottor Giannino. Mi dica. Buongiorno. Senta, allora le mie possono sembrare delle provocazioni, ma in verità gliele lascio a lei alcune considerazioni che richiameranno l'attenzione anche dei nostri ascoltatori. Allora, io in base alla mia esperienza ho accumulato un paio di, diciamo, ho maturato un paio di convincimenti. Che fa lei? Sono consulente fiscale. Sì. Se gli spacciatori di droga fossero costretti a tenere la partita IVA, smetterebbero di spacciare. Cioè, questo paese non ha margini, non ci sono attività che possono assicurare un margine di vivere serenamente con un'attività economica. E quindi ho detto, ho maturato questa cosa qui. Gli spacciatori di droga, se fossero costretti a tenere la partita IVA, visto che sono soggetti a una pressione fiscale che supera il 60%, smettono subito di spacciare, no? Non ci sono più i margini. Un altro motto che sempre io ho meditato è questo. Sì. Una persona, prima di aprire una partita IVA, dovrebbe sottoporsi a delle sedute di una nuova figura neuropsichiatra. Sì. E cioè il neuropsichiatra tributario. È una persona che fa delle sedute e gli spiega dove si va a mettere, a cacciare. Io infatti l'ho dovuto fare, per così dire, perché oltre che due società sono appunto un autonomo con partita IVA, e purtroppo non avevo alternativa, e poiché non posso spacciare droga ho aperto la partita IVA. Però queste che sembrano paradossi di Roberto danno l'idea appunto, da parte di un soggetto che conosce gli adempimenti, di quanto siano drammaticamente complicati. Vogliamo fare un altro esempio? Ecco, allora, domani è l'ultimo giorno per il versamento dell'imposta dovuta, perché lo Stato ha ricambiato idea sullo scudo fiscale, tutti hanno applaudito, io no, perché l'ho considerata la rottura di un patto con coloro che hanno fatto il rimpatrio e la legalizzazione dei flussi di cassa detenuti all'estero. Bene, domani è l'ultimo giorno per il versamento dell'imposta. Sapete quando l'Agenzia delle Entrate ha emanato le regole per effettuare i versamenti? Quando le ha emanate? Un mese fa, quando è stata approvata la norma? No, l'ha emanata 24 ore fa. Questa è la simmetria intollerabile dello Stato nei confronti dei suoi cittadini, che sono tenuti a correre mentre loro ti tengono con il capio intorno al collo. Felice da Monza, che pensa Felice? Sì, grazie. Anch'io sono un ex autonomo, adesso in pensione, mi hanno proposto dei lavori, ma se penso a tutti quelli che ci si mettono in mezzo a mangiare, mi spiego, se lei mi commissiona qualcosa io la faccio, quante persone manteniamo? Ecco, fino a quando si tollererà questa cosa? C'è uno studio sociale su questo sacrificio che deve fare anche l'imprenditore, ma anche il negozio che deve lavorare alla domenica e al lunedì prima di andare a massacrarlo? Le faccio un esempio, quando voi date le previsioni del traffico, c'è magari un ascoltatore che ve le segnala, lei senta quelle della RAI, ci sono una sfilza di enti che collaborano, mancano l'arcigay e l'arcilesbica e poi ci sono tutti. Vabbè, con tutto rispetto anche per loro, giusto da parte di Felice. Gli imprenditori naturalmente in Italia sono sempre solo picchiati in testa, perché poveretti, picchiati in testa perché gli si dice siete addirittura troppi, capite? Voi con questa vostra mania di mettervi in proprio. Felice da che ci dice? Felice? Su questo, la sua esperienza, voglio dire, è un'esperienza che nella... Pronto? È caduta la linea. Federico da Grosseto? Sì, sono eccoci, io. Eccoci. Giannino, buongiorno. È un onore parlare con lei. Senta, a pochi secondi, quindi vado al punto. Sì, arrivo subito al dunque. L'idea da analista programmatore è questa. È proibire la stampa delle fatture su carta. Fare elettronica. Farle tutte elettroniche, secondo un modulo standard che predispone il Ministero delle Finanze. Perfetto, e qui ci fermiamo perché purtroppo il tempo è scaduto e mi dispiace Federico perché potevo dare io qualche secondo prima. A domani, le imposte si pagano, ma senza odio sociale, perché il ladro maggiore è lo Stato.